Tu nel libro parli anche in maniera molto, molto franca del fatto che ormai la storiografia non è più considerata o trattata adeguatamente in maniera seria e professionale, che molto spesso giornalisti e media come la televisione o altro la fanno molto più da padrone rispetto al rigore storiografico. Quindi tu dici che c'è una sorta di una stagione di populismo storiografico e di anche incapacità di utilizzare adeguatamente gli strumenti che è manifestamente faziosa, insomma, in alcune sue parti. E oltre agli esempi scontati di cui magari potremmo anche chiederti qualche particolare come le varie trilogie di Panza o altro, anche proprio un intento forte dei giornali. Quasi che la storiografia non sia più una scienza specialistica, ma che un libro di Panza, appunto di Bruno Vespa, vada molto di più a incidere poi a livello di massa che non un'attenta analisi storiografica. Questo è un fatto soprattutto italiano. In Italia è particolarmente trasparente, però attenzione, la colpa, se così vogliamo dire, non è dei Pansa di Vespa. La colpa è degli storici che scrivono delle cose illegittime. Ultimamente sono stato in libreria e ho visto alcuni titoli prodotti da colleghi che caritatevolmente non ricordo. C'era un volume di storia economica sui falegnami di Vigevano, la falegnameria di Vigevano. Poi c'era un volume di storia militare di 200 pagine sul copricapo di cavalleria dal 1861 al 1943. Ora, se gli storici scrivono di queste cose, chi vuoi che possa interessarsi e leggere questo tipo? Se gli storici scrivono in modo noioso e incomprensibile, se gli storici hanno la mania di scrivere con più spazio alle note che al testo, note di 18 righe su argomenti noiosissimi e parzialissimi, beh, ovviamente la gente preferisce comprare il libro di Pansa o di Vespa che gli parla dell'Italia del 43, cioè di momenti storici particolarmente importanti. Quindi io prima di tutto mi lamenterei del fatto che è proprio la storiografia accademica a mancare l'appuntamento e a creare le premesse per tutto questo. Poi c'è il meccanismo mediatico, l'industria mediatica che privilegia la sensazione, privilegia lo scoop, la notizia, anche quando è uno scoop totalmente inventato, per cui il revisionista parte avvantaggiato perché se tu scrivi che a Waterloo Napoleone ha perso, lo sappiamo, non è una notizia, ma se scrivi che a Waterloo in realtà Napoleone ha perso perché il giorno prima era stato tradito da una donna, cosa assolutamente falsa, che non esiste, quello fa notizia, poi magari dopo verrà fuori che è falsa, ma chi se ne frega, intanto quello che fa sensazione è quello. Quindi è chiaro che il revisionista in questo senso è sempre avvantaggiato perché dice la cosa nuova, fondata o meno che sia. Quindi il meccanismo mediatico inclina in questa direzione, però poi anche bisogna dire che la produzione storiografica italiana, in particolare negli ultimi 20 anni, per usare un'espressione poco accademica, fa decisamente schifo.